fosse yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. La categoria umanoide di cui tratteremo oggi ha un nome molto frequentemente usato. Sono definiti con un termine che, diciamo, appare nel nostro linguaggio quotidiano decine e decine di volte, ormai completamente sdoganato, un termine che si sente normalmente in bocca anche alle più timorate nonne, anche ai parroci di campagna. È qualcosa che naturalmente potremmo pronunciare tranquillamente e liberamente. Io lo pronuncerò soltanto una volta al massimo in questa trasmissione, poi useremo, come già facemmo altre volte, una colorita metafora. Vediamo se riesco a individuare e a focalizzare la persona senza nominarla. Immaginate che nell'ambiente di lavoro ci sia sempre un capo vessatore, un capo che da voi pretende, infiorettandovi e fornendovi elementi fantastici, il massimo. Immaginate che siate circondati da persone che hanno tra di loro il problema di dover competere per essere quelli più in vista, per essere quelli che danno il massimo. Immaginate che voi vi sentiate l'unico indenne tra tutte queste persone e che vi sentiate schiacciato da questo meccanismo. Insomma, siate circondati da stronzi e non sappiate come risolvere. Caro coach, all'inizio sembrava l'amica del cuore. Direttrice di una società di comunicazioni, la capa preferiva sempre vedermi al bar e discutere con me amabilmente di tutta la sua vita incasinata. Pur essendo una persona molto strutturata, non riuscivo a contenerla. In un anno mi ha delegato progetti importanti come responsabile. Ogni volta l'incarico avveniva alla frutta, dagli antipasti al secondo si parlava di lei. All'inizio mi sembrava un'ottima opportunità per sfruttare al meglio la mia partita IVA, ma dopo un anno di lavoro avevo quasi l'esaurimento nervoso. Quando il commercialista mi ha detto quante tasse dovevo pagare, sono crollata. A settembre le ho chiesto un aumento. Mi ha detto che l'avevo delusa, che pensava ci fosse un'amicizia fra noi. Non ci crederai, avevo anche i sensi di colpa. Primo fantastico esempio, primo impatto devastante, prima strisciata devastante e anche dolorosamente sopportata da parte di questa ascoltatrice, di questa signora, che ha scritto a un signore, ha scritto a un life coach che dovrebbe aiutarla nel intricato mondo, nella foresta insormontabile e invalicabile degli stronzi. 101 modi per liberarti dagli stronzi, trovare soddisfazione nel lavoro, gli stronzi al lavoro, manuale per riconoscerli e sopravvivere felici. La mia collega è sempre stressata. Lavoriamo insieme per una compagnia di assicurazioni, un lavoro abbastanza ripetitivo, anche se faticoso. Lei deve lavorare e accudire anche due figli. In effetti la sua vita è molto faticosa, non ne dubito, ma che senso ha lamentarsi sempre e comunque? È sempre tesa e sembra che debba crollare da un momento all'altro. Eppure non fa nulla per cambiare o migliorare la sua vita. Ogni impegno quotidiano nuovo, il dentista, la visita dal pediatra, la spesa, è un'irritazione, una fonte di preoccupazione che gli produce una spirale di ansia e di tensione, che poi sfoga su di me. Come devo comportarmi? 800240024. Mi sembra che l'argomento sia stato sufficientemente, chiaramente, palesemente enunciato. Passo adesso alla persona che può aiutarci in questa difficile opera. Nel reperimento e nella soppressione, se possibile, visto che secondo me la redenzione o la rieducazione sembra abbastanza difficile, del vessatore cronico nell'ambiente di lavoro. Sì, perché Luca Stanchieri, buongiorno. Buongiorno. Luca Stanchieri è l'autore di questo manuale, edito dalla Newton Compton, che esce proprio in questi giorni, i 101 modi per liberarsi dagli, diciamo, vessatori cronici, anche perché la parola corrispondente molto usata già l'avete conosciuta, non per pruderia, ma ripeterla continuamente per un'ora secondo me appesantirebbe la trasmissione. Luca Stanchieri, innanzitutto cosa fai te? Il life coach esattamente in cosa consiste? E perché hai questa bacchetta magica che potresti riuscire a liberarci dai vessatori cronici che ci circondano nell'ambiente di lavoro? Allora, un life coach allena le potenzialità delle persone, soprattutto in contesti difficili. Quando c'è un vessatore, il contesto di lavoro diventa un contesto difficilissimo. Già di per sé noi... Non necessariamente un capo il vessatore cronico. Assolutamente no. Può essere anche un subordinato. Da questo punto di vista può essere anche un cliente un vessatore cronico. Frase tipica del vessatore cronico cliente? Pago pretendo, per esempio. No? Siccome lui ha pagato, a quel punto se ne frega completamente di chi sta dall'altra parte e pretende il suo prodotto senza tenere in considerazione la relazione umana che collega comunque le persone in ogni situazione, in ogni luogo. Ecco, nella scala che ho mandato prima, che tratta dal tuo libro, esiste la situazione speculare. Un capo o un collega che fa leva sull'amicizia, sul rapporto personale, per poi dimostrare la sua capacità devastante di essere vessatore cronico. Eh sì, lì il problema è enorme, perché nel momento in cui noi utilizziamo, come dire, il carisma, no? Per poter motivare le persone, senza però poi porre chiaramente quali sono le regole del gioco che organizzano in qualche modo la nostra relazione, noi siamo in balia poi dell'arbitrio o del capo o del collega o del collaboratore. Laddove non ci sono le regole del gioco per lavorare insieme in un clima sereno, prevale comunque alla fin fine una qualche forma di vessazione. Quindi è un primo sistema per individuare i sintomi del vessatore cronico. È possibile individuarlo in maniera preventiva o bisogna per forza sbatterci la faccia, starci male, subire lo stress della sua opera nefasta per accorgersene? Ma io penso che nel momento in cui qualcuno ci fa una proposta che non è chiara nei suoi lineamenti, nei suoi fondamenti, nelle sue modalità, noi dobbiamo stare attenti, comunque dobbiamo essere prudenti da questo punto di vista. 800240024, avete capito qual è il problema? L'individuazione, lo sterminio o perlomeno l'isolamento in aree non nocive dei vessatori cronici. Potrebbe essere il vostro collega, potrebbe essere la vostra collega, il vostro capo, il vostro cliente. Nel lavoro abbiamo la possibilità di incrociare quotidianamente con vessatori cronici. Come scoprirli e come fare a meno che ci facciano del male? Coach, sapevo che la direttrice della mia scuola era maligna e meschina, ma vedere le mie colleghe che la imitano è veramente deprimente. C'è chi si fa le unghie mentre sta in classe e i bambini fanno casino, chi non sa distinguere la sottrazione dall'addizione, chi è isterica e comincia a urlare come un'invasata, e riunite sono ancora peggio. Non si riesce a fare programmazione, un minimo di coordinamento della didattica, tutte se ne fregano. Mentono in continuazione per i ritardi, le assenze, lasciano agli altri le incombenze burocratiche e poi dicono che la scuola è allo sfascio. 800240024, 101 modi per liberarsi dai vessatori cronici e trovare soddisfazione nel lavoro, che poi sarebbero gli stronzi, lo dico per l'ultima volta. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Lei ha avuto a che fare con vessatori cronici? Sì, io ho avuto a che fare, ci sono stato anche sofferto moltissimo, perché non è una cosa indolore, e poi però ho trovato la strada migliore per uscirne. Io ero dirigente con anche responsabilità importanti di una SPA pubblica e con degli ottimi risultati. Nel pubblico è più facile trovare vessatori cronici, secondo lei? Sì, guardi, nel pubblico, soprattutto nella Seconda Repubblica, è molto più facile. Perché Luca Stanchieri, perché secondo lei? Chiedo un attimo al nostro ospite, no, resta in ascolto Alessandro. Diciamo che lì ci sono vari fattori. In primo luogo la convivenza forzata, che diventa una convivenza a vita, perché poi lasciare un posto pubblico e non è molla veramente, nessuno, cioè. È veramente terribile. Quindi è come un matrimonio, c'è tutta la mestizia e il senso di non rassegnazione di chi è sposato. Sì, perché all'inizio, vinto il concorso, ovviamente si è felici, perché si è in qualche modo risolto una parte importante della propria vita. Però dopodiché noi ci troviamo e ci possiamo trovare fianco a fianco con una persona che distruggerà le nostre giornate se non sappiamo reagire. Continui Alessandro. Niente, io all'inizio non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo. Poi quando ho realizzato che si voleva per un cambio di linea aziendale fare un'operazione di reengineering che io stesso avevo proposto. Cioè la stavano segando, come sempre accade. Sì, esatto. Allora che cosa conosco il tema, perché è capitato anche a me. Ho sbattuto la porta dicendo: signori, io ho una dignità, ho 55 anni, 58 anni, tra 3 anni potrei andare in pensione, ho dei figli piccoli. Li ho mandati, come si dice, a quel paese. Sì, però quando il palo ormai era già ben penetrato per i 2/3, succede così di solito. Sì, bravo, bravo. Però è stata una mia grossa rivincita, perché ho avuto successo. Vabbè, questo molte volte... Sul mercato ho avuto successo, stando sempre nello stesso settore. La fortuna aiuta gli audaci, diciamo. Ma la fortuna, la consapevolezza dei propri limiti soprattutto, perché da un'esperienza del genere si esce, se una persona non è debole, comunque rinforzata, perché impara a rapportarsi con gli altri, a prendere le dovute cautele e soprattutto impara a conoscere fin dove può arrivare. E ringraziando io e ringraziando tutto, finora... È arrivato lontano. L'avessi fatto prima. Certo è che c'è una cosa da dire, quello che è successo a me e a tante altre persone ormai è una costante in politica, cioè tu servi tu sei importante fino al momento che servi, quando non servi più ti cacciano via nonostante i tuoi meriti. Luca Stacchieri, perché dovrebbe essere diversamente? Però scusi, il mondo del lavoro, il mondo dell'imprenditoria, dell'industria, è un mondo giustamente spietato, non deve avere pietà, mica è un ente di assistenza per i poveri. Non è giusto ci sia questa spietatezza, perché non c'è la consapevolezza e comunque si è carne da cannone? Perché il problema non è tanto essere o non essere spietati, il problema è la competenza. Nel momento in cui noi abbiamo situazioni molto difficili nel posto di lavoro, anche concorrenze accanite, anche situazioni estremamente conflittuali, ciò che in qualche modo rende un vessatore privo di ragioni è la sua incompetenza organica nel perseguire i prodotti e gli scopi del lavoro stesso. E la sua incapacità di mettersi in gioco, perlomeno di fare i conti in questa sua incompetenza, essere pieno di se stesso e quindi dover nascondere le sue incompetenze. Io penso che la radice di ogni stronzo, cioè di ogni vessatore cronico, ci sia un'incapacità di riuscire a avere la giusta misura dei suoi limiti o delle sue splendide qualità. E quindi è una guerra continua nel dover mascherare, creare altri se stessi fittizi con i suoi capi, con i suoi dipendenti, con i suoi colleghi. E lì scatta il cortocircuito. Assolutamente sì, anche perché ognuno di noi può avere comportamenti da stronzo. Quello che distingue il vessatore da tutti gli altri è che non farà mai autocritica, perché è dotato di un'altissima autostima. Quindi si difenderà sempre e comunque e perseguiterà gli altri fino a che non troverà qualcuno che è più vessatore di lui. Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sto aspettando. Mi senti? Sì, dai. No, io sono un coach life della seduzione, cioè sono appena finito una lezione che c'aveva uno studente che ha delle problematiche chiaramente legate all'insicurezza, soprattutto l'insicurezza dal punto di vista della comunicazione. Ah, tu diciamo insegni a trombare, non c'entra nulla col lavoro. Beh, in un certo senso do un grosso aiuto, poi se per una sera o per tutta la vita questo non dipende. Cioè io mi domando sempre chi ha le tue competenze perché perda tempo a insegnarlo agli altri, comunque... Beh, c'è un suo guadagno, cioè, non è che lo faccio così, è un lavoro che sto proponendo e devo dire che oggi, grazie proprio alla tecnologia, anche ai mezzi di comunicazione come internet, Facebook, insomma, ho veramente tanti ragazzi che mi chiedono una mano, dei consigli, ho dei video su YouTube, basta fare seduzione vichingo, che è il mio nome. Sì, ti sei fatto anche la marchetta, va bene, dai, e poi? Grazie. E adesso? Sto vedendo che sono dei grossi problemi, ad esempio i ragazzi giovanissimi si trovano a confrontarsi con le ragazze della loro età che sono molto più esperte. Una volta era il contrario, no? Tu avevi 16 anni. Stai confezionando delle banalità estreme, io ti faccio parlare senz'altro, ma così ti dai la zappa sui piedi, perché vabbè, abbiamo capito, fai life coach delle seduzioni, c'hai un sito e la gente ti scrive, tu dai a loro possibilità e illusione di potersi accoppiare felicemente. Buongiorno, Massimiliano. Massimiliano in questo momento ha un problema troppo grosso per andare avanti. Beh, andiamo avanti con le lettere che abbiamo tratto dal nostro libro. Queste lettere che abbiamo sceneggiato e che hai pubblicato nel tuo libro, Luca Stanchieri, da cosa provengono? Da che tipo di rapporto o esperienza? Sono persone che ti hanno contattato? Sì, sì, sono manager o impiegati che subiscono delle angherie al lavoro, che subiscono situazioni di fortissimo stress anche emotivo e che cercano in un coach o in uno psicologo, quale sono io, un supporto, un sostegno e soprattutto un rafforzamento per poter affrontare situazioni estremamente difficili. Senti, il vessatore cronico che loro allucinano o hanno come ossessione della loro giornata, percentualmente è più un dirigente, un superiore o un collega pari grado? Ma certo, i dirigenti da questo punto di vista hanno un peso maggiore, ma non perché percentualmente sono più vessatori di altri, ma perché quando il vessatore ha anche un potere nelle sue mani, questo crea un cortocircuito tremendo. È quello che ha in mano la tua felicità quotidiana e non è roba da poco. Basta una parola, basta una riunione spostata, basta un incarico demansionante per rovinarti la vita e poi l'infelicità tracima in tutte le altre attività quotidiane. Poi ci vorrebbe il tuo collega che insegna i rapporti sentimentali. Andiamo avanti. Caro coach, sono settimane che cerchiamo di dare dei suggerimenti al nostro capo per migliorare il lavoro e fare in modo che i clienti abbiano risposte chiare. A ogni suggerimento, lui, dall'altra parte della scrivania, risponde con un niente da fare. Fino a che siamo quasi arrivati al collasso. A quel punto il capo del nostro capo ha chiamato un consulente che gli è costato un occhio della testa. Il consulente, che stupido non è, ha messo in pratica tutti i suggerimenti che ripetevamo da un anno. Il mio capo li ha presi come una rivelazione divina e ora va in giro a dire che il merito è suo. Luca Stanchieri, autore dei 101 modi per liberarsi dai vessatori cronici, Newton Compton. Riflettevo prima sulla telefonata del tuo, non so se chiamarlo collega, di poco fa. Potrebbe dare l'impressione che in realtà chiunque potrebbe fare il tuo lavoro, ma come ci si arriva? Ma Gianluca, io personalmente mi sono preso due lauree, prima in economia e poi in psicologia, dopodiché ho fatto anche un master per fare il coach. Quindi ritengo che questo mestiere possa essere fatto solo con un altissimo livello etico e una grande competenza tecnica. Per dirti, chiunque nei momenti in cui le protesi emozionali dei sistemi telematici di comunicazione danno un grande carisma potrebbe improvvisarsi qualsiasi lavoro, qualsiasi attività. Ieri un'amica mia si è slogata una caviglia e mi ha scritto su Facebook che stava a letto, la caviglia gli faccia male. L'ho guarita a distanza, tramite la chat ho detto adesso ti impongo le mani a distanza e poi stava anche meglio. Diciamo che nel gioco fra amici possa esserci un'infinità di possibilità di turlupinare e succhiare soldi ai poveri ingenui, quindi bisogna fare molta attenzione a chi ci si rivolge anche in questi casi. Melog 2.0. Caro coach, lavoro da anni con una specie di robot. Stiamo fianco a fianco nella segreteria di un notaio tutti i giorni. Con lui non si sa se ridere o piangere. Non è uno cattivo, è uno che non sa scherzare né condividere emozioni. È freddo, grigio, silenzioso. Quando gli è nato un figlio, gli ho chiesto se era felice. Mi ha risposto: abbastanza. Quando gli racconto della mia famiglia o di altro, non commenta mai. Ascolta e annuisce senza espressioni in viso. Ma è normale. Mi fa venire una rabbia. 800 24 0024 Luca Stanchieri, 101 modo per liberarsi dagli stronzi e trovare soddisfazione nel lavoro, però Newton Compton editore, però siccome siamo personcine per bene, invece che chiamarli stronzi li chiameremo vessatori cronici. Quindi da ora in poi, ma come già abbiamo fatto in prima parte, parleremo dei vessatori cronici, quei tristerrimi personaggi che ci rendono infelici la giornata, per cui la primavera diventa autunno e anche l'estate si trasforma in un gelido inverno, come nel caso di Monica. Buongiorno. Salve. Sì, io avrei un paio di domande. La sento un po' provata, Monica. Prego? Ti sento un po' provata. Provata? No. No. Sto benissimo. Volevo fare un paio di domande. Siamo qua. Visto che parlate di soli uomini e di ambienti frequentati da magari poche donne e soli uomini, ma che cosa ne pensate del luogo di lavoro dove non solo donne, delle, della vessatrice donna che poi diffonde come un virus la stronzaggine fra tutte. No, io mi aspetto che siano donne a raccontarmelo, non potendomi improvvisare in generi che non mi appartengono. Capisco perfettamente, io ho subito vessazione cronica da parte di donne anni fa. La peggior vessatrice cronica era una mia vice che mi ha distrutto l'esistenza, quindi so esattamente che si tratta, ma non conosco bene i rapporti fra donne. Se ci dai qualche elemento in più, il nostro coach Luca Stanchieri ti risponderà felicemente. Beh, mi è capitato ovviamente, qualche volta ho risposto diventando peggiore e qualche volta invece ho lasciato il lavoro perché non ne valeva la pena, c'era cattiveria proprio, perché la donna è veramente cattiva e in un ambiente dove solo donne lavorano poi è come un virus, lo prendono tutte, allora diventa difficile. È come la candida, ci si trasmette l'un l'altro. Luca Stanchieri, questo virus fra femmine. Io penso che la questione non possa essere ancora, come dire, non è stata ancora così approfondita. Non c'è da letteratura sufficiente. No, su la stronzaggine di genere. Penso però che da questo punto di vista, mi dispiace dirlo, gli uomini sono stati maestri e precursori straordinari di vessazioni nei posti di lavoro, se non altro perché hanno avuto la stragrande maggioranza dei posti di potere fino a poco tempo fa. Io avanzo un'ipotesi politicamente scorrettissima. Non è che le vessatrici croniche donne nei confronti del genere maschile usano anche l'arma della femminilità come coadiuvante e additivo alla loro stronzaggine? Ma da questo punto di vista no, io le cose penso vanno dette, non è che ci si può girare intorno. Ma io penso che la femminilità può essere messa al servizio della manipolazione, però è manipolazione, non è femminilità. Diciamo, sì, ho capito, è il tecnicismo che corrisponde a uno strumentale uso dei propri umori, dei propri effluvi, delle proprie carnali seduzioni. Vittoria, d'accordo? Vittoria? Ah sì, buongiorno. Sì. Senta, io volevo parlare, sì, sono pienamente d'accordo di quello che state dicendo ora. Le volevo dire che anche nel mio caso i rapporti con le donne sono sempre molto faticosi rispetto a quelli con gli uomini. Ho trovato vessazioni pesanti da parte delle donne, soprattutto in una famiglia in cui ho lavorato e sto lavorando da circa 10 anni, faccio la colfa e la tata, e i rapporti con la madre sono piuttosto confusi, proprio perché la madre non ammette questa gelosia da parte sua nei miei confronti. Ha bisogno di me, però nello stesso tempo questa è un'arma a doppio taglio, perché pur avendo bisogno ne è anche gelosa, non ammette questa gelosia, e quindi la vessazione passa attraverso altri canali, come per esempio non so, dice che stendo male i panni, oppure ho, che ne so, un rapporto troppo stretto con la figlia, oppure i miei comportamenti basati anche sui miei studi, mi sto laureando in psicologia, sono in psicoterapia, sto cercando di curare la mia parte anima di me. E comunque, insomma, critica questi comportamenti dicendo proprio che dei miei studi a lei non gliene porta, diciamo, niente, perché siamo in radio. Ecco, la mia lei vorrebbe, dice, dai lo straccio per terra, meglio, sì, e non me ne importa, sì, niente, esatto, che tu ti stia laureando. Se c'è pulito dappertutto riesce a vedere uno sporco. Non le riconosce un rango intellettuale, interiore, superiore a quello di esecutrice. Certo, anzi, la mente in continuazione, ha una grande autostima, non si mette mai in discussione. E c'è questo rapporto difficile, perché io è vero che sono molto legata alla figlia, d'altronde ho cominciato che la bambina aveva 10 mesi. Ma esiste anche un marito in questa casa? Esiste, ma esiste virtualmente, perché è fuori tutto il giorno, perciò non c'è assolutamente come padre. Quindi, diciamo, è un gallinaio che vi beccate fra di voi e senza il gallo. Quello è il problema. Proprio così. Senza girarci intorno. Uscire a volte da queste vessazioni è molto difficile, io ne esco mortificata, perché non riesco a reagire a questi comportamenti, perché sento il bisogno di questo lavoro, soprattutto sotto l'aspetto economico. Beh, e anche di relazionale nei confronti. Ferma lì Vittorio. Luca Stanchieri, sì. Si è messa secondo me in un bel groviglio questa signora, perché sembra che se le vada a cercare con il lumicino, farà parte la sua terapia, mettersi una casa, c'è una figlia, una madre isterica, un padre inesistente e proporsi anche come alternativa intellettuale rispetto alla padrona, vuole essere soltanto padrona di una schiava che le permetta di esercitare in qualche maniera il suo ruolo di padrona di casa. Sì, da questo punto di vista in alcuni casi, in alcuni contesti abbiamo un po' esagerato nel voler trasformare il lavoro in una sorta di espressione di realizzazione di noi stessi. Quando ci sono questi ambienti c'è bisogno di un distacco emotivo forte, al contrario di come sta facendo la mia futura collega. In questi casi bisogna lavorare il meno possibile, col minor costo possibile e col massimo guadagno possibile. Solo in questo modo si possono poi spendere le energie nello studio e nella costruzione della professione futura. Sì, devo dire che anche la nostra ascoltatrice porta, conoscendo già i suoi studi di psicologia, dovrebbe farle capire che ci sono dei problemi in quella casa, portando ogni giorno la sua pagellina, le sue progressi dal punto di vista della comprensione dell'animo umano, fa altro peggiorare la sua situazione. Forse nemmeno vorrei avercela io per casa una così. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi scuso perché potrei essere emozionato durante questa telefonata, però volevo brevemente raccontare la mia vicenda, che è legata a un mio ex capufficio. Vessatore cronico. Sì, anche lui è un vessatore. Niente, cosa succede? Che questa persona ha sempre cercato di prendersi i meriti degli altri. E nella fattispecie c'è stata questa occasione che mi ha fatto capire quanto abile fosse. Che cosa succedeva? Glielo spiego brevemente la situazione per farle capire. C'era un caos bestiale nell'organizzazione dell'ufficio, ma lui non faceva niente per mettere tutte le cose a posto. Cosa succede? Noi ci riuniamo in segreto poco prima del suo ritorno da pranzo, che lui usciva sempre con il datore, con il titolare dell'azienda. Al suo rientro, però, purtroppo quel giorno ha anticipato il rientro. Ma perché scusi, lei è ingenuo, qualcuno l'avrà avvertito, lui avrà avuto sicuramente degli informatori fra voi, ma figuriamoci. Ci mette la mano sul fuoco. È una casualità. Ma figuriamoci. Comunque, che ne dice Stanchieri? La morale qual è? La morale Stanchieri. Qual è? Che noi facciamo... I vessatori sono degli squali che non bisogna mai sottovalutare. Si fidi. Prego, avanti. Sì. Niente, che cosa succede? Che lui ci trova proprio sul fatto, mentre noi stavamo organizzando... Col sorcio in bocca. Un nuovo sistema di lavoro. Sì, un nuovo sistema di lavoro. All'interno dell'ufficio alla sua insaputa, perché lui non riusciva ad organizzare. Vi ha giustamente segato le gambe. Avete certo. Osato questa ribellione. Come il marito torna in casa e trova la moglie con l'idraulico. Sì, mortificante. Sì, proprio così. Siamo rimasti un po' sorpresi del suo arrivo, perché non era mai successo prima. Niente, arriva e ci... Ma scusate, ma lei continua a insistere, ma... Come fa a essere così ingenuo a pensare che, proprio perché non era mai successo prima, per puro caso si è rientrato prima? È chiaro, c'era una talpa, lui vi aveva impaninato, aveva sotto di voi sicuramente qualche donna delle pulizie, qualche suo stagista che gli riferiva per filo e per segno ogni palpito in quell'ufficio. No, l'azienda è molto piccola. È proprio per quello. Vabbè, ammesso che sia successo, senta l'abilità. Le congiure si fanno fuori del luogo d'ufficio comunque. Cosa succede? Che lui entra e ci trova sul fatto. Noi gli spieghiamo cosa stiamo facendo, anche a lui brevemente, e lui dice con una frase: finalmente siete riusciti a fare quello che io davanti al titolare, quello che io vi dicevo da tanto tempo, era ora. Ma nel giro di un secondo, la sua mente perversa cosa aveva fatto? Perfetta, sì, nel suo modo di vivere. Cosa aveva fatto? In un secondo ci aveva... si era preso i meriti di tutto quello che lui non aveva fatto. Vi aveva piantato fatto. Un palo della luce nelle vostre timide velleità di autonomia. Sì, sta bene. Aveva forziato nello stesso momento un'abilità. Stanchieri, cosa... questa non è un'occasione per riflettere che in fondo il vessatore cronico è un altro l'atteggiamento da tenere, non questo della timida e, ahimè, fanciullesca tentativo di sedizione. Assolutamente, anche perché poi bisogna capire che in questo caso, diciamo, questa persona rispondeva a un altro capo, quindi è stata scelta. A volte il vessatore non è un genio isolato, a volte può essere il simbolo di una cultura aziendale. E quindi lì bisogna stare molto attenti, perché se io non capisco dove sto lavorando e quali sono i parametri culturali che regolano i rapporti di lavoro, io rischio tantissimo. Devo cercare sempre di capire qual è l'elemento fondamentale della cultura aziendale, se è la stronzaggine oppure è la competenza, se è la cordata politica oppure è l'eccellenza. Se io non capisco quali sono i parametri di riferimento, anche se io sono molto bravo al lavoro, rischio di essere messo da parte e emarginato. Melog 2.0. Caro coach, non ce la faccio più. Ogni giorno passo almeno un'ora a compilare report e indici che devono verificare la mia performance. Il nostro capo è convinto che deve misurarci in tutto ciò che facciamo. È un maniaco dei dati. Un consulente lo ha convinto che se riesce a misurare bene, potrà darci gli incentivi che meritiamo. Il problema è che per compilare i suoi dati, lavoriamo molto meno di prima. 800240024, ci stanno chiamando tantissimi, proponendo quello che è stata la loro esperienza nel mondo dei vessatori cronici. Noi questa mattina prendiamo ispirazione dai 101 modi per liberarsi dai vessatori cronici, che poi sarebbero stronzi, e trovare soddisfazione nel lavoro. È Newton Compton editore, Luca Stanchieri autore. Luca Stanchieri, stiamo riflettendo prima che in realtà tutte le telefonate vengono da esperienze passate, come se fossimo lo sfogatoio dei disastri degli amori perduti. Ma forse perché io penso che il lavoro sia soprattutto non solo competenza tecnica, ma anche relazione umana, relazione fra esseri umani che passano tantissimo tempo. Una difficile alchimia fra capacità di relazione e capacità professionale. Difficilissimo. Senza l'una non vale l'altra, diciamo la verità. E fra l'altro a noi ci insegnano moltissimo, quando va bene, le competenze tecniche e pochissimo le competenze relazionali, quando invece è proprio sulla relazione che noi troviamo i nostri maggiori vantaggi o svantaggi nel luogo di lavoro, no? Perché vivere bene con gli altri nel luogo di lavoro è comunque un fatto positivo. Stare con un vessatore è terribile, è talmente tanto terribile che è meglio parlarne quando ormai magari è già alle spalle, perché le conseguenze emotive di un vessatore sono veramente terribili da sopportare. Spesso addirittura il vessatore ha la capacità di farci sentire in colpa. Ah, certo, sì. Quasi come se fatto qualcosa. Il suo comportamento fosse un prodotto nostro. Allora noi ci domandiamo perché e non troviamo risposte. Proprio perché il vessatore non ha delle cause dietro le spalle per cui in qualche modo può fare quello che fa. Il vessatore di solito non ha alcun tipo di giustificazione morale. Il problema non è perché fa questo, il problema semmai è come impedire che questo avvenga. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo portarvi la mia esperienza, se si può avere un piccolo aiuto. Io in pratica sto attualmente lavorando con un vessatore, io lo chiamo piuttosto Lecchino, lo chiamo. Io trasporto carne da una vita, faccio l'autista, e questo signore qua in pratica da anni, adesso si fa sentire ancora di più, cerca di ottimizzarsi l'amicizia del capo portandolo in giro a Mignotte, in pratica al venerdì sera. Beh, sempre carne... Sempre nell'area merceologica in cui vi muovete, più o meno. Carne viva piuttosto che carne morta. Proprio. Quello usa questo stratagemma. In più gli offre anche cose abbastanza proibite. In più anche durante... Cioè, cosa sono le cose proibite? Carne di porco? Cocaina. Cocaina. Si coprono entrambi i loro vizi, così lui tiene nascosto alla moglie, il mio titolare tira nascosto alla moglie quello che fa il venerdì sera, diciamo. Vabbè, è un sistema perfetto, mi scusi, adesso non vorrei entrare. Se hai trovato uno schiavo ruffiano che gli provvede ai suoi piaceri e vizi, quindi che devo fare? Il problema è che io ce l'ho anche sul lavoro, e questo ultimamente con la crisi che c'è, lui non per meriti, ma con questi stratagemmi qua, lui riesce sempre a lavorare di più e io sempre meno, sono diciamo in due autisti. Guardi, se lei legge con attenzione le cronache quotidiane, ci sono esempi sparpagliati a ben più alto e vasto raggio di procacciatori di donne, procacciatori di piaceri, procacciatori di cocaina, procacciatori di affari, procacciatori di case a prezzi stracciati. È un meccanismo che un po' le è andata a sbattere, secondo me, con la punta più dolorosa dell'iceberg del vessatore terrificante. Però cosa devo dirle? Sentiamo se Luca Stanchieri ha qualcosa da aggiungere, però mi sembra che la sua sia una situazione in cui c'è ben poco da fare se non cambiare lavoro. Ma cambiare lavoro in primo luogo è un'opzione che bisogna tenere presente. La seconda cosa è questa: nel momento in cui noi non condividiamo le linee culturali dei nostri capi, è importante, a mio avviso, comunque cercare di esprimere il meglio di noi stessi. Cioè, se questa persona comunque innanzitutto si considera un solista, cioè una sorta di lavoratore autonomo anche dentro la squadra della sua azienda, e al contempo fa un esame di quali sono le sue potenzialità, le sue risorse, indipendentemente da quello che fa il capo, ecco che lui ha più possibilità di esprimersi. Se invece lui sta continuamente sul pensiero della vessazione del proprio capo, le sue energie in qualche modo vengono drenate dal negativo. Dovrebbe concentrarsi maggiormente sui suoi interessi. Da una storia vecchia, ricordo adesso un vecchio film commedia americano degli anni 50, adesso non ricordo né attori né titolo, potrei fare una ricerca veloce, di un impiegato che era costretto a lasciare il suo appartamento ai capi dove ci portano le amichette, poi una mattina ci trova una semisvenuta che aveva tentato il suicidio, se ne innamora e via dicendo. Quindi è una storia vecchia, giocare sulle debolezze del capo, c'è chi gli provvede alle case e alle vacanze, chi gli porta l'automobile in giro, chi gli porta il cane a fare la pipì. Esiste una vasta e vastissima gamma di ruffiani cronici, però di fronte a questi c'è poco da fare, secondo me. Gianni? Sì, sento. Buongiorno. Sente? Sì, certo, sento. Ok, io niente, sono un dirigente di azienda di Milano, ho portato un ex collega all'interno della mia azienda, io ho un capo donna, di cui ovviamente ho esperienze decennali come amministratore, direttore generale e quant'altro. Questo, mi sono trovato di fronte a un capo donna non all'altezza della situazione, ho portato un mio ex collega e me lo sono trovato paradossalmente molto ruffiano nei confronti di questa donna, al punto tale che io l'anno scorso ho perso il posto di lavoro. Caro mio, ha fatto un errore madornale, capito? È come portare a cena a casa l'amico seduttore, poi uno non si deve lamentare di averci le corna. Chi porta la sua moglie ad ogni festa, fa bere la mula ogni fontana, in capo all'anno la mula è bolsa e la moglie è così così. Manuel. Sì, buongiorno, io mi chiamo dalla provincia di Novara. La mia è una situazione un attimino pericolosa perché sono proprio sul posto di lavoro, però volevo dirle che per me è una situazione un po' in controtendenza rispetto a quello che già i vostri ascoltatori hanno. Andiamo al punto, stiamo chiudendo. Io stavo, dopo un inter professionale durato anni, stazioni di tutti i tipi, perché faccio il cuoco, mi sono ritrovato il classico fissatore magno proprio. Sì, vado a concludere. Niente, adesso lo tengo per, e come fate, per i cosiddetti. Perché? Perché in una situazione di disperazione, lo sta ricattando, si è espresso come ha sempre fatto con altri prima di me. E io invece ho reagito pesantemente, mettendolo di fronte al fatto che quelle 40 persone che stanno per mangiare l'ho fatto da solo. Vabbè, la soddisfazione è male, ho capito. Lei ha trovato una piccola occasione di vendicarsi del vessatore, questo la farà star meglio. Ricordo che ci sono 101 modi per liberarsi dai vessatori cronici, che poi sarebbero gli stronzi, e trovare soddisfazione nel lavoro. Potrete capirlo dai suggerimenti che vi fa Luca Stanchieri. La trasmissione per oggi è finita e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.